L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta che va in onda a pochi giorni dalla conclusione del Vinitaly, quindi parliamo con piacere, grazie a Maria Chiara Grandis, del progetto Viva Sustainable Wine. Viva sta per valutazione dell'impatto della vitivinicoltura sull'ambiente. È un progetto avviato dal Ministero dell'Ambiente nel luglio del 2011, ha lo scopo di misurare e migliorare le performance di sostenibilità delle filiere vite vino. Le aziende che hanno aderito al progetto hanno dapprima misurato l'impatto della loro produzione in termini di sostenibilità e poi intrapreso un percorso di miglioramento della loro sostenibilità nei quattro grandi ambiti che sono stati individuati: aria, acqua, territorio e vigneto. Il progetto appunto è del Ministero dell'Ambiente in collaborazione con 9 aziende e 3 centri di ricerca per il vino sostenibile Made in Italy. Marco Trevisan è direttore dell'Istituto di Chimica Agraria e Ambientale dell'Università Cattolica di Piacenza, che è appunto uno dei 3 centri specialistici di cui dicevamo. Professor Trevisan, noi vediamo qui 4 indicatori per misurare la sostenibilità delle imprese italiane, cioè territorio, aria, vigneto e acqua. Come sono stati calcolati? Allora, sono stati calcolati con 4 approcci differenti, nel senso che il primo indicatore, che è aria, ha valutato tutte le emissioni di gas climalteranti, quindi le cosiddette gas serra, che sono stati espressi come CO2 equivalenti, quindi in pratica ha tenuto conto fondamentalmente dei consumi energetici in prima battuta. Secondo indicatore, quello dell'acqua, ha considerato invece tutti i consumi d'acqua che sono coinvolti nella produzione del vino, a partire dal campo per finire alla cantina e alla produzione anche dei packaging. Terzo indicatore, vigneto, invece ha tenuto conto degli aspetti collegati fondamentalmente alla cultura della vite, quindi agli aspetti collegati alla salvaguardia del paesaggio e del territorio, in particolare tenendo conto dei contenuti di sostanze organiche, quindi preservare la fertilità dei suoli, evitare l'erosione, modifiche limitate ai paesaggi e quant'altro. L'ultimo indicatore, che è l'indicatore territorio, è un indicatore un pochettino anomalo, perché mentre i 3 precedenti sono di tipo quantitativo, questo è un indicatore invece di tipo qualitativo e tiene conto fondamentalmente di aspetti collegati alle attività socio-economiche collegate con l'azienda vitivinicola. A un anno dal varo del progetto, qual è il bilancio del Ministero dell'Ambiente? Maria Chiara Grandis l'ha chiesto al ministro Corrado Clini. È stato consolidato il metodo. Il metodo non è un prodotto astratto, è il risultato del lavoro. Per cui è stato fatto il lavoro, per così dire, in campo, in diverse aziende di produzione, sono state raccolte le informazioni sono state poi elaborate e sulla base di questo è stato possibile mettere a punto la metodologia che oggi è disponibile. I dati che abbiamo raccolto in alcune delle aziende con le quali stiamo lavorando, che non rappresentano però l'intero sistema vitivinicolo italiano, sono molto confortanti. Nello stesso tempo però mettono anche in evidenza che ci sono dei margini di miglioramento. Vi hanno suggerito qualche ipotesi di politiche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale? Certamente. Una fra tutte, che era parte dello schema di delega fiscale che il governo ha presentato al Parlamento, che il Parlamento non è riuscito ad esaminare e ad approvare, che aveva tra l'altro la previsione delle cosiddette misure fiscali in campo ambientale, che prevedono incentivi in relazione all'uso efficiente delle risorse naturali e delle risorse energetiche. E quindi anche qui, in questo campo, tutto fermo e niente incentivi per l'efficienza. Lamberto Vallarino è infine il presidente di Federvini, come rappresentante, quindi possiamo dire, delle 9 aziende che stanno partecipando a questa ricerca. Si parte sempre dalla qualità, il processo ti permette di avere ancora più sotto controllo quelli che sono gli aspetti ambientali, quindi le aziende possono migliorare il processo e le cose che hanno sempre fatto partendo dal campo fino al consumatore finale, avendo degli indicatori che gli permettono di migliorare. Quindi aiuta anche le vendite? Aiuta anche le vendite in un momento in cui il consumatore è sempre più sensibile alla sostenibilità, quindi c'è un argomento in più per comunicare, per far sapere che le aziende del nostro settore sono sensibili, ma non solo, recuperano CO2, anzi ne danno di buona al mercato. L'auspicio è che si superi la fase sperimentale. Dalla sperimentazione si andrà nella pratica, di fatto il progetto delle nuove aziende ha già dimostrato che c'è un sistema misurato che può essere proposto e venduto al consumatore finale. L'obiettivo adesso è allargarlo a tutte le altre imprese, quindi le nuove imprese hanno fatto un po' da attivatori per tutte le imprese del resto d'Italia e del mondo, speriamo. Un'ultima domanda, si parla tanto di sostenibilità ambientale, c'è un pregiudizio, cioè si pensa che sia un ostacolo per le imprese, non è così? Assolutamente no, anzi all'opposto, vuol dire veramente essere responsabili di quello che è l'ambiente, di quello che è l'impatto ambientale, di quello che si può fare per migliorare e salvare il pianeta. Grazie a Maria Chiara Grandis per la collaborazione da Verona, dal Vinitaly. Ora andiamo dal vino all'acqua e lo facciamo spostandoci da Verona a Milano, dove in questi giorni c'è il Salone del Mobile, e proprio in questa occasione abbiamo incontrato Daniel Birnbaum, che è l'amministratore delegato di SodaStream, un'azienda che opera a livello mondiale nella produzione e distribuzione di gasatori domestici per l'acqua, insomma quelli che ci rendono l'acqua gasata che molti di noi cominciano ad avere in casa. Ci ha aiutato in questo dialogo come interprete Petra Schrott, che in realtà è la responsabile marketing di SodaStream Italia, che si è prestata insomma a questo ruolo nelle sue competenze. La prima riflessione che abbiamo fatto insieme riguarda i consumi di acqua in bottiglia. In Italia sono sempre stati altissimi, adesso stanno scendendo, un po' è colpa della crisi, un po' invece è dovuto alle campagne a tappeto sull'acqua del sindaco, le casette dell'acqua e via dicendo. Insomma, i consumi di acqua in bottiglia stanno scendendo e abbiamo chiesto a Daniel Birnbaum: riscontrate anche voi nelle vendite dei gasatori domestici questa riduzione dei consumi dell'acqua in bottiglia e quindi uno spostamento verso i consumi dell'acqua di rubinetto? Ed è questo un fenomeno solo italiano? Well, first of all, it's a pleasure being here in Milan during the Design Festival. Thank you for having me. It's one of my favorite cities in the world and certainly one of my favorite countries in the world. Oh, Daniele è molto molto contento di essere qui, anche perché lui adora Milano, adora il Salone del Mobile e adora l'Italia. È sempre qui anche a sciare il signor Daniel. La cosa che sta dicendo assolutamente sì, vede una decrescita per quanto riguarda le bottiglie, la vendita delle bottiglie, dell'acqua in bottiglia e anche delle cole, non solo in Italia ma nel resto del mondo. In tutto il mondo l'acqua di rubinetto è una fonte principale d'acqua, è buonissima. In Italia abbiamo tantissime fonti inestimabili di acqua potabile, molto buona, quindi lui non vede perché la gente non debba bere direttamente dall'acqua di rubinetto e, se la vuole gasata, usare anche un gasatore SodaStream. Ci stava, ovviamente il gasatore SodaStream non l'avevamo ancora nominato, però ci stava, vero Petra? Quali sono magari i consumi, diciamo, preferiti paese per paese, no? Dicevamo l'Italia tanta acqua, negli Stati Uniti tanta cola. But for reference, Italians drink a lot of sparkling water. One of the highest. Ma assolutamente sì, abbiamo tantissimi paesi, allora possiamo dire che l'Italia è il mercato principe per quanto riguarda l'acqua gasata. Infatti dovete pensare che è il secondo mercato al mondo per consumo d'acqua in bottiglia, quindi 150 litri di consumo di acqua per capita, che facendo un rapido calcolo viene fuori un 25 milioni di bottiglie che vengono immesse nell'ambiente tutti i giorni da noi italiani. La cosa cambia un pochino quando passiamo agli Stati Uniti, perché sono dei grandi consumatori non di acqua ma di soda, quindi di bibite gasate. Faceva un piccolo aneddoto dicendo che loro consumano 120 litri di soda durante la giornata, in tutto l'anno. Il problema è che queste persone si svegliano la mattina, invece di bersi il bicchiere d'acqua o il succo d'arancia, si bevono il gusto root beer piuttosto che la ciliegia o cose del genere. Quindi, beh, è impressionante come dato, almeno per noi italiani che siamo sempre consumatori di acqua, no? Quindi questo sicuramente c'è una grande differenza. Al di là del fatto della crisi economica di cui accennavamo prima, che ha un po' convinto gli italiani a cambiare le loro abitudini, mi piacerebbe sapere su quali punti insiste SodaStream per convincere le persone comunque a cambiare le loro abitudini. Well, it's a revolution that's happening worldwide right now. Stiamo parlando di una rivoluzione che sta avvenendo non solo in Italia, ma stiamo parlando di 45 paesi che sono in stato di rivoluzione. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che non vediamo perché le persone non debbano usare, bere l'acqua di rubinetto e, se poi la vogliono gasata, usare un gasatore. Non solo per avere l'acqua gasata, ma anche con la possibilità, con tantissimi tipi di sciroppi, la SodaStream ha 150 tipi di sciroppi in tutto il mondo e in Italia anche il Chinotto, si possono fare le bibite gasate direttamente a casa. È una questione di sostenibilità, quindi non immettiamo nell'ambiente una quantità di bottiglie per capita ogni giorno immensa, è una questione di risparmio, perché si risparmia bevendo l'acqua di rubinetto gasata oppure facendosi le bibite gasate direttamente a casa, e anche una questione di comodità. Sembra che abbiamo fatto un po' uno spottone a SodaStream in questa puntata. Non era questo l'obiettivo. L'obiettivo è più che altro ricordarsi che si possono fare delle scelte, che possiamo consapevolmente scegliere la bottiglia dell'acqua minerale perché ci piace, perché vogliamo un determinato tipo di acqua, possiamo scegliere diversamente. Grazie a Petra Schrott per essere stata con noi e essersi prestata a fare da interprete. Grazie. E grazie anche a Daniel Birnbaum, che ricordo l'amministratore delegato di SodaStream. Grazie. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.